Buonasera a tutti e tutte. Abbiamo iniziato a registrare. Non abbiamo ancora detto che giorno è, quindi lo diciamo per il piacere di Picarasi, che è il 14-12. Oh, 14-12, che è subito dopo il 13-12. Che è subito dopo il 13-12. Questa è la X puntata di To Do List. Abbiamo già perso il conto nonostante siamo alle primissime puntate. Esatto. Ma a questo punto mandiamo questa bellissima... Lasciamo la sigla scorrere sotto di noi come un tappeto Pica, volante. Esatto, grazie Pica. Come al solito che hai scelto questa bella canzoncina. Meno male che ci sei tu, Pica. Mamma mia, guarda quanti insulti. Quanto sei forte, Pica. Faccio il podcast, Pica, grazie, ciao. Body. She asked me for the time. I said a cost of a name, six digit number, and a date with me tomorrow at nine. Did she decline? No, didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl at 24. So is she keen? She couldn't wait. Cinnamon queen. Let me update. But what did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. Some stop with a bottle of Moet for two. A drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this guy on Monday, took her for a drink on Tuesday, we make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. Nine, one time, 'cause I be getting mine, and she was looking fine. Smooth talker, she told me she loved to unfold me all night long. Ooh, I love the way she kicked it from the front to the back, she flipped it. And I, oh, I, yeah, hope that you care, 'cause I'm a man, I'll always be there. I'm not a man to play around, baby, 'cause a one night stand isn't really fair. From the first impression, girl, you don't seem to be like that. 'Cause there's no need to check, but there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, endless ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me Monday, took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. Break it down, break it down. Since I met this special lady, who yeah, I can't get her off my mind. And I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Monday, took her for a drink on Tuesday. We make love by Wednesday, and on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday, took her for a drink on Tuesday. Eccoci qua. Diamoci un talk a questo Craig David. Chissà che fine ha fatto. Che fine ha fatto Craig dopo questo video dove ripercorreva sempre lo stesso giorno, te lo ricordi? Esatto. Era infatti in realtà il primo giorno abbiamo saccherato un pochino e abbiamo messo l'audio del video. Compreso di intro iniziale di 7 ore. Che parla, e... che parla a telefono. Esatto, poi fa. A un certo punto torna tutto indietro e fa tipo cioè in mezzo alla traccia, sì, molto bello. Quanti video abbiamo visto su MTV? Tra l'altro è una puntata che è andata perduta comunque. Oh no, è il solito demone del rec. Purtroppo, no, era il demone di MixXX che bastardo. Ha deciso di crashare a un certo punto. Fare parlare tutti noi da dentro un'astronave. Una bottiglia, in mezzo al mare. Da dentro un'astronave aliena molesta. Beh, d'altronde ogni tanto capitano dei problemi tecnici a Radio ZM. Il must di questo problemi, di questi problemi di solito sono le ribelli che se ne inventano di particolare, in modo tendenzialmente decide di implodere. Ci sono anche delle onde elettromagnetiche dal sole quando c'è la trasmissione degli ribelli, cose che insegna... tempesta magnetica, esatto, come insegnava. E tutto questo accade per un motivo solo, cioè che un giorno qualcuno disse: mi piacciono i problemi tecnici, perché così li posso risolvere. A te, Chiara, la scelta di capire chi è stato. Quel demente che in questo momento sta lavorando. È quel demente a cui dobbiamo tutto. Quel bravissimo, vabbè, fortissimo, vabbè, intelligentissimo, simpaticissimo, dal cane bellissimo Lorenzo Bigarazzi, che non abbiamo ancora salutato di nuovo, no, mentre sono insultato. Sono le 18:56 del 14 dicembre 2020. Niente po' di meno che iniziamo con la nostra to-do list. Stiamo riuscendo a guadagnare minuti ogni, ogni weekend. Vinciamo. Week. Esatto. Allora, niente, noi come al solito in realtà inizieremmo dalla giornata di oggi, che siamo, come dire, in conclusione, ma come al solito ricordiamo che molto spesso ognuno di questi eventi potenzialmente è recuperabile sulla pagina dell'evento stesso o degli organizzatori, quindi potete... Oppure andate in inversione, come ci racconta Tenete, rivivete la giornata, no, scusate, esatto, un problema. Esatto, adesso io... altre 17 così. Ore di colonna sonora dai, di Tenet. Dai, puoi mettere. Puoi metterla dopo, okay. Se vuoi sì. Beh, che di questo, Lorenzo. Quando nessuno ascolta e hanno già spento la radio... Ok, ci sto. E niente, quindi andiamo a recuperare un po' le iniziative di oggi. Io in realtà, più che parlare delle iniziative, oggi inizierei con un momento di bilancio, di felice bilancio, sì, della giornata di oggi, che ha visto, sì, uno sciopero della sanità, diciamo presente. Mobilitazioni a catena proprio. Mobilitazioni a catena, quindi 8:30 al San Carlo, 10 al San Paolo, 14:30 al Palazzo della Regione. Quindi una bella giornata di lotta. Proprio un doppio passo così. Una un bella po di giornata di, là. Di nebbia e una bella giornata di sole. E una bella giornata di tutto, insomma. Bello, evviva. Io ho cercato, non vediamo di accedere a Facebook di senza la mia identità, ma la cosa non funziona. Peccato. No, niente. Andremo, cioè, a cercare in un'altra maniera. Il nostro momentaneo social media manager, no, Gulli, no. Non è, non becca, allora, bene. Intanto non è becca. Particolarmente multitasker. Non beccano proprio niente. Non è molto proprio multitasker, quindi fa, eccoci qua, fa solo una cosa per volta, ma continua a cambiarla. Cioè, no, non ne fa una. E poi c'è bello questo siparietto. Io spero che si senta anche in radio per i nostri ascoltatori questo momento battito. Trrr. Esatto, un po' Signore in Giallo. Sì, me l'hanno fatto un po' notare che pesto i tasti, manco gli odiassi. Ma ti prego, non indugiare, Chiara, sulle mie incapacità e inettitudini che sono svariate. Ma leggici. E niente, no, allora leggici. Abbiamo per la giornata di oggi un bel numero di suggestioni. Abbiamo un incontro, dibattito online, ha chiamato Gentrificazione e Covid, organizzato in occasione del 7° compleanno della cascina di Bergamo, che attualmente, insomma, è senza stata luogo, sgomberata, però è stata esattamente sgomberata da una giunta infame. E l'idea di questo dibattito è quello di capire un po', diciamo, tutto ciò che sottende alle dinamiche della gentrificazione a livello urbano, e quindi come cambia e come modifica le dinamiche demografiche all'interno degli spazi urbani, e analizzare in che maniera lo spazio pubblico entra poi in relazione con i suoi, con appunto con le istituzioni, i movimenti, e come entrano in gioco fra di loro, e quale tipo di tensione si genera e in che termini, immaginando diciamo portandosi a definire cosa intendiamo come diritto alla città. C'è un secondo incontro, scusate, sta andando in onda esattamente in questo momento. C'è un altro incontro di un intitolato La Terra di Sotto, presentazione online del volume, ed è organizzata dai compagni e le compagne di Ape Milano e Ape Bergamo. Attenzione, quelli che vanno per montagna. Bravo, proprio lui, proprio loro, e in effetti c'è appunto questa presentazione organizzata da loro sul libro La Terra di Sotto, e la definiscono come l'esplorazione attraverso la fotografia, la cartografia, il giornalismo e l'analisi territoriale dei cosiddetti territori dello scarto, partendo da Torino e arrivando a Venezia, passando da Milano e Brescia, un viaggio nelle megalopoli padane alle prese con l'eredità di un secolo di ipersfruttamento dei territori. tra discariche, fabbriche abbandonate, cariche di veleno, commercio di rifiuti e criminalità organizzata. Fantastico, direi quasi fantastimistico. Esattamente, insomma, i compagni e le compagne di Ape Brescia e Ape Milano spingono e quindi andate a recuperare, anzi questo lo potete vedere a breve, nel senso che inizia alle 21 e le trovate in streaming appunto sulle pagine dei due gruppi di cui abbiamo appena parlato. C'è altrettanto ci sono altre due grandi riconferme che ripresentiamo tutte le settimane. Il primo è quello di percorsi di lettura organizzato da Prosper Editore, a cui oramai siamo affezionati, e l'idea è, questo è il secondo appuntamento perché c'era già iniziato settimana scorsa, o forse terzo appuntamento addirittura, anzi, e è fondamentalmente una serie di incontri in cui autori e autrici della casa editrice, per l'appunto di Prospero Editore, parlano di libri non scritti da loro, quindi di libri di altri. E nello specifico la giornata, diciamo l'incontro di oggi, proprio a partire dalle 19, quindi due minuti fa, è quello di fare un excursus particolarmente, secondo me, interessante, in compagnia di due autori che mi scuseranno ma non conosco. Sono Giampiero Kesten e Davide Romagnoni. Costorola, ma allora vedi che il destino è proprio lui. Cazzo, che bomba, sì, raga. Invece me lo ricordo perché è un giornalista di Radio Popolare. Ed effettivamente in questo caso l'idea è quella, appunto, l'excursus è chiamato Dai lager nazisti al golpe cileno, e quello, diciamo, come viene raccontato un po' il... Ci sono ospiti in radio. Ma vuoi agguantare un microfono e stare qui con noi per un pochino? Dai! Dai! La nostra caporedattrice Greta non l'abbiamo ancora salutata. Esatto. Caporedattrice Greta, saluti il pubblico. Caporedattrice. Ciao. Ha salutato, però lei è una persona seria, fa cose, per cui è giù di sotto che fa ci cose. Ci sta. Allora, raccontiamo appunto, finiamo di descrivere questo incontro. Loro lo descrivono così: quando vittime e carnefici si trovano nello stesso luogo, il lager, il concetto di zona grigia coinvolge le due parti in maniera opposta. Le vittime cercano di sopravvivere a discapito di altri, i carnefici trovano giustificazione nell'aver eseguito gli ordini. Si parlerà in questo caso di Se questo uomo e La tregua, entrambi grandi opere di Primo Levi, già note come Sequestro un uomo, la leggenda popolare secondo cui la gente chiede sequestro un uomo. Sequestro un uomo? Così, esatto. Devo fare questo o no? Nelle librerie. Scusa. Una persona a caso per strada glielo chiede. E a questo punto, come ultimo elemento, poi in realtà torniamo su un aneddoto volendo di prima, è un'altra grande riconferma, che è quella di Covid e carcere, l'appuntamento del lunedì mattina, comunque sì, tutti recuperabili sulla pagina di Associazione Antigone, che propongono appunto incontri di approfondimento per parlare della situazione nei carceri con l'ondata di pandemia di Covid-19. Ogni settimana si propone una tematica. La puntata di oggi si concentrava sui numeri che arrivano dalle carceri, sia per quanto riguarda la popolazione detenuta, sia per quanto riguarda invece il numero dei contagi. E il focus, visto che si muove di regione in regione, abbiamo visto Piemonte, Lombardia e adesso questa è la volta del Veneto. Quindi c'è un focus sugli istituti del Veneto, anche in questo caso la recuperate sulla pagina Facebook dell'Associazione Antigone. Molto interessante, tutto molto interessante. Io nel frattempo, da bravo fallito regista incapace, sto cercando di aprire altri social per essere, diciamo, multimediale, far uscire un sacco di link mentre noi parliamo, ma non mi riesce perché sono un inetto. Facciamo così, vai. Ti propongo di festeggiare il primo compleanno, sì, compie gli anni oggi, proprio sì, oggi, del 14 di dicembre del 1965. Ci smontano la radio, fratello. Vinicione Capossela con un pezzo che cos'è l'amor, che dovresti avere lì da qualche parte, uno dei prefe del buon Maci che sta sotto i nostri piedi in questo momento. Sì. Ma non in un'altra stanza. Ma non è proprio ora che non respiro. Proprio qui.

comporre un post alla fine che comparirà sulla pagina di Radio ZM alla fine di questa puntata con il tag diretto a tutti gli incontri di cui parliamo e o abbiamo parlato, in maniera che insomma tutti possiamo andare a recuperare più agilmente l'evento, diciamo, in questione, se qualcosa vi ha solleticato la curiosità. Se qualcosa non lo ha fatto, cioè, o meglio, se niente lo ha fatto, bisogna farsi un esamino della coscienza. Ma comunque, al netto di questo, un'altra cosa che non avevo detto era che si conferma un trend, diciamo, in queste puntate, che sono di una crescita progressiva, lenta ma inesorabile, come qualcos'altro che ci piace molto, di come dire, eventi principalmente, anzi unicamente politici in presenza. Quindi questo è bello, cioè bello, abbiamo sì, una crescita sempre, come dire, goccia a goccia, ma effettivamente stiamo iniziando ad avere la possibilità di raccontarvi anche parecchi eventi da raggiungere con i vostri piedini e le vostre mascherine indossate adeguatamente. Calzate a pennello, adeguatamente, anche se devo dire che vi fa sempre ghignare, vedo veramente della creatività nell'indossare. Sono situazioni strane, situazioni particolari talvolta. Ma va bene, va bene. Vabbè, io sto iniziando a comporre il fantastico post che uscirà postumo a questo programma. Mamma mia, ma che giochi di parole qui a To Do List. Siamo un po' almanacco, ma anche siamo un po' enigmistica. Giocoleristi. Molto bello, molto bello. E niente, vai, dici, proseguiamo. Dici, proseguiamo. Vai, dici che adesso sono impegnato a fare quello che scrive, ma poi leggerò anche. Allora, forse. Molto bello. Ci ho messo delle figure apposta. Grazie. E niente, no, in realtà quindi abbiamo finito, per fortuna abbiamo finito gli eventi di oggi, nel senso che ci proiettiamo poi verso i prossimi giorni, di eventi online e non, come dicevamo, ce ne sono diversi. Uno di questi, in particolare nella giornata di domani, martedì 15, perché oggi tu ben mi ricordi essere lunedì 14 di dicembre 2020. Assolutamente, per chi, sì. Per chi lo ascolterà nel 2500 dirà, ma questo programma è avantissimo. No, era il 2020, era 14 capito. Dicembre ed erano le 19:13. Esattamente. E quindi niente, uno dei primi eventi a presentarsi a partire da domani mattina è un evento che si chiama Sanità a che punto siamo? Un sistema al collasso tra tagli e accesso alla salute negato. Ora, questo incontro è organizzato dalla rete delle assemblee di ecologia politica, sì. Ma in realtà è in questo caso bello, come dire, eterogeneo, nel senso che mi sembra di capire dall'evento è che si tratta fondamentalmente di una grossa tavola rotonda con tante realtà che lavorano, diciamo, diversamente, che sono uscite diversamente dalla situazione pandemica, insomma, in cui ci troviamo. E quindi, per esempio, fra i presenti ci saranno Brigata Basaglia, Assemblea per la Salute del Territorio, Obiezione Respinta, Coordinamento Non Sta Andando Tutto Bene, Gruppo d'Inchiesta sulla Prima Linea, insomma un bel po' di... Un bel gruppettone di gente che per l'appunto racconterà come proverà, diciamo, a trovare delle fila fra tutte, come dire, le mobilitazioni e i movimenti che hanno attraversato la penisola. E insomma, quello che dice l'evento è che, nonostante l'eterogeneità della composizione e le rivendicazioni, quello che è emerso in modo chiaro è stato il rifiuto ad accettare nuove restrizioni senza prima avere garanzie da un punto di vista economico. Quindi insomma i temi sono diversi, sono quelli del reddito garantito, della ricollocazione al centro della sanità pubblica e della decisionalità popolare, il concetto di salute, di cura, insomma di carne al fuoco ce n'è parecchia, quindi se volete andare a recuperare, domani martedì 15 dicembre alle ore 18 in diretta sulla pagina dell'evento. Un altro nuovo evento che mi ha, diciamo, che non ho potuto fare a meno di mettere all'interno di questa grossa agenda è la quota arte. Attenzione. È la quota arte perché il Museo del Novecento di Milano sta organizzando in questi, diciamo, in questa seconda ondata pandemica in cui, come tutti gli altri musei, è disposta la chiusura a tempo più o meno indeterminato, e forse il 15 di gennaio riapriamo, chi lo sa. Quindi appunto il Museo del Novecento ha sfruttato questa chiusura per organizzare una serie di lezioni magistrali su alcuni protagonisti della storia dell'arte del Novecento, e questo mercoledì 16 dicembre alle ore 18:30 c'è un incontro appunto chiamato Antonello Negri racconta Lucio Fontana. Quindi Antonello Negri, che è un professore all'Università di Milano di fonti, modelli e linguaggi dell'arte contemporanea, racconta Lucio Fontana, insomma un gigante della storia del Novecento, pittore, ceramista e scultore italiano, in realtà forse nato in Argentina se non erro, morto nel 68, ma piuttosto, come dire, celebre. Ma è sempre Fontana dei tagli, dei tagli, giusto? Diciamo, diventato noto per i tagli, in realtà anche grandissimo ceramista. Io sono una grande appassionata delle ceramiche, più che altro. Quindi andate nel caso a cercare 16 dicembre, no, non in generale, le sue nello specifico. Che no, sto ridendo perché ora che ci penso, io ho toccato un'opera d'arte di Fontana. L'hai fatto? Penso sì, l'ho fatto, e non era per rubarla, né tantomeno perché stavo cadendo addosso dentro, ma perché per spostarla, appenderla al muro. Fastidio. Incredibile, appendavamo al muro, avevamo 10 scemi, tra cui io sicuramente più scemo e altri meno scemi, compagni di Zam e altre persone professionalmente più formate per fare questo mestiere, che avevamo appeso la Medusa di Fontana. Niente poco di meno, costa che un po' per di l'appunto soldi, è una ceramica, diciamo, è una delle cose. Era comunque 200 kg di cemento, in otto a sudare, faceva caldo, sì, era un aprile molto caldo. Faceva caldo quella aprile molto caldo. Avevi voglia di ripetermi chi organizza? Il Museo del Novecento. Ah, proprio lui, proprio lui, proprio lui, sì sì, il Museo del Novecento in realtà ne ho viste organizzate 4 di questi incontri, il primo me lo sono perso, in realtà forse era addirittura su un'altra artista che potresti avere toccato, che è Carla Cardi, cioè non lei direttamente. Poverina, speriamo di no. No, anche perché porella purtroppo non c'è più, ma è... No, è Carla Cardi. Invece, può darsi. Una grandissima del, diciamo, del design, dell'arte e del design, del gruppo informale, molto molto molto bello. Insomma, in questo caso cercate pure Art Talk 02 Antonello Negri racconta Lucio Fontana, mercoledì 16 dicembre alle ore 18:30. Ma siccome io mi sono già stancata di parlare, sì, ci terrei a mettere un altro pezzissimissimo. Per questo giro non è neanche solo un'occasione, sono due occasioni. Mm-hmm. Perché che cosa succede? Il 15 dicembre, cioè domani, compie gli anni Paul Simonon, che è il bassista dei Clash, niente po' di meno che... Niente po' di meno, è proprio lui. Ma non è la sola ricorrenza, musicale. Perché in realtà cosa il 14, cioè oggi, 14 dicembre del 79, sì, quindi 41 anni fa, sì, usciva niente po' di meno che London Calling. Osteria. Proprio quell'album lì, proprio quello lì con il tizio davanti che spacca, proprio quello. Pensa a te. E quindi, siccome è un grande compleanno, sono due grandi compleanni da festeggiare, noi mettiamo The Guns of Brixton, che oltre a tutto non solo è contenuta in London Calling, quindi uscita proprio 41 anni fa, ma è anche scritta e cantata dal bassista, per l'appunto, che compie gli anni, il quale è cresciuto per l'appunto a Brixton, nel quartiere periferico di Londra. Che storia, quante cose mi fai scoprire in questi programmi qua che si fanno con te. Va bene, ascoltiamocela. Guns of Brixton. A tra poco. shot down on the pavement or waiting in the pool. You can crush us, you can bruise us, but you'd have to want us to. Surely your time will come, as in heaven, as in hell. Non ci potrete credere, tolgo questo ritorno orrendo. Non ci potete credere, ma io sto facendo tante cose insieme, sono quasi multitasking. Ma ti prego, Chiara, continua a nominarci i fantastici eventi che io inseguirò tanto poi. Tanto oggi in realtà siamo molto musicali, perché soprattutto adesso mettiamo un po' di frizzantezza musical. E niente, in realtà i prossimi due, tra l'altro posso raccontare anche questa cosa. No, la racconto dopo. Praticamente ho trovato questi altri due incontri, uno il 17 e l'altro il 18. Sì. Anzi, uno lo dedichiamo con una freca di insulti al buon Piccarasi, ma ci arrivo fra un attimo. In realtà avevamo parlato già settimana scorsa di un evento sul Rojava, che in particolare coinvolgeva anche Rete Gin. Organizzato dai bravi ragazzi di Resilient Gap. Ah, ok. Sono i bravi ragazzi, il famoso gruppo. Quei bravi ragazzi, no. Il gruppo di DJ. Nel frattempo, ci dicono che ci ascoltano anche da Barcellona. Che bello. Pensa dove arriviamo con questa radio. Che meraviglia. Tenerezza. Che meraviglia. E niente, in realtà c'era stato già un incontro sul tema, in quel caso dell'ecologia e della questione femminile all'interno delle comunità resistenti e del confederalismo democratico del Rojava. Per chi se lo fosse perso, volendo potete andarvelo a recuperare, ma per chi se lo fosse perso e volesse sentire qualche cosa di nuovo, si riparla di Rojava anche questa volta. Questa volta l'incontro è organizzato invece da Piano Terra e tra l'altro dai Vermi di Rouge. Salutiamo Rouge. Attenzione, ciao, carissimo Rouge. Grande. Faccio un disegnetto. Esattamente. No, scherzi a parte, l'incontro si chiama Oltre la guerra, Blooming in the Desert e la rivoluzione del Rojava, ed è un'iniziativa appunto in cui si racconta un po' quella che è la situazione in Rojava e la rivoluzione, diciamo, che sta portando avanti il popolo curdo. E in particolare l'iniziativa in questione sostiene, fra le altre cose, la campagna per la liberazione di Eddie, sottoposta a misura di sorveglianza speciale da parte del Tribunale di Torino, anche in questo caso doveroso ovviamente, come dire, dare uno spaccato su questa cosa. Eddie è una compagna che è partita volontaria internazionalista nelle YPG del Kurdistan, appunto del Rojava, e tornata dopo aver combattuto l'ISIS, è stata ha ricevuto questo bel fogliettino dai fondi delle schifidi della legge più fascista e repressiva di merda, proprio terribile. Che cioè, non riesco neanche a dirlo in una maniera che non sia esattamente questa, cioè. Perché se tu vai a combattere una teocrazia dittatoriale che ammazza e uccide, e che tra l'altro viene pure combattuta dall'Italia con delle missioni, certo, militari finanziate, quando tu torni indietro però sei un po' pericolosina, sei un po' un cattivino perché hai fatto quello che noi volevamo già fare, esatto. Ma l'hai fatto tu bene, e noi non l'abbiamo fatto. E ci noi ti abbiamo controllato noi. Figura, non esatto. Ti abbiamo controllato noi mentre lo facevi. Per cui con la divisa sì, senza divisa no. Cattivona. Mamma mia, che tristezza, che fanghi. Che amarezza. Esatto, che amarezza. Sosteniamo ovviamente Eddie nella sua, come dire, più nella speranza, la più totale liberazione da questa munnezza di misura. E insomma, se volete ascoltarvi questa chiacchierata, oltre alla guerra Blooming in the Desert e la rivoluzione del Rojava, giovedì 17 alle ore 19 in bello, diretta sulla pagina di Piano Terra, per l'appunto, e suppongo anche Vermi di Rouge, molto molto figo. A questo punto un nuovo evento è appunto dedicabile a Lorenzo Bicarazzi from Phoenix. Oh my god, è lui? Sì, è proprio lui? Uh-huh. È proprio lui, perché lui è uno degli artefici, diciamo, tecnici di questa serata. È una serata che oramai è arrivata alla sua ottava edizione, perché è la finale dell'ottava edizione del premio Dubito. E in particolare quest'anno si chiama La Vendetta del Pipistrello. Ora, il comunicato sulla pagina del premio Dubito è divertente ed è, come dire, tutto giocato sull'immaginario dei pipistrelli, che è molto bello. Non l'abbiamo riportato tutto per evidenti problemi di tempo, ma andatevelo a guardare se volete, e soprattutto andatevi a guardare la finale del premio Dubito. Non ci saranno le solite due serate nel centro sociale autogestito Cox 18 a cui ci hanno abituato i ragazzi del premio Dubito, ma ci sarà una diretta online fra gli operatori di camera. C'è il nostro tuttofare cialtrone maledetto. Pensavo anche l'altro, lo schifoso maledetto Caronia di Cigognini, che magari poteva già iniziare a fare cosa di utile. Ma no, vita. Ma credo che sia. No, ma tu ben sai che il buon Pica è molto legato a questo premio. In realtà ci teneva molto. E me l'ha fatto, cioè me l'ha anche segnalato come se non l'avessi già da tempo in agenda. Comunque ok, grazie Pica, certo, come no. E venerdì 18 dicembre alle ore 21 in diretta online su Argo TV, che suppongo sia un canale YouTube. Nel dubbio, se come me siete un po' confusi, andate a cercare Agenzia X, per esempio, o Premio Dubito, o l'evento di appunto in questione, quindi La Vendetta del Pipistrello, e recuperate da lì delle informazioni su come connettervi. Ma io sto cercando disperatamente questo evento, ma maledizione, riesco a trovarlo. Forse perché è sul qua. Sito di no, perché non ne hanno Facebook. Fatto una grafica Facebook e ne hanno fatto una pagina sul sito di Islamix o Agenzia X. Okay. Non ricordo perfettamente. Tra l'altro io mi sono sempre domandato, a bravo idiota, ma è Slam 10 o Slam X? Cioè è una X o è un 10 numeri romani? Credo che sia Agenzia X e Slam X. No, Agenzia 10. No. Cioè, vi per vendetta e vi mai anche 5. Cioè adesso 5 non è che, per vendetta, dire, però, raga. La prossima volta che battete 5 un faccia. 5 ad un amico, sappiate che gliela state giurando. Mi state dicendo vi per, esatto, vi per vendetta. Esatto. Va bene. Okay, andiamo a cercare grazie, prodemente. Ma guarda, allora, senti, facciamo così, diamoci una tregua. e ascoltiamoci un'altra canzone. Perché stiamo facendo troppe cose insieme. Stiamo facendo troppe cose insieme. E quindi un altro... No, ecco, adesso voglio raccontare questo aneddoto. Perché io ho cercato, come al solito, i miei compleannini. Cerco il 14, trovo... per l'appunto trovo il vinicione, trovo il 15, trovo il buon Paul, però in generale, cioè in questi giorni è morta un botto di artisti, sono morti. È il, bloom indotto dalle festività. Esatto, ma nati non tanti. In compenso poi ho scoperto che sono nati tutti il 18. Chi? Tutti. Tutti, cioè i prossimi, cioè, che presentiamo, te, l'altra persona che è lì sul divano a fare le cozze in questo momento. I prossimi quattro artisti. Vai. Sono tutti del 18 di dicembre. Adesso ce ne ascoltiamo uno. Ah, ce ne ascoltiamo uno subito, ok? Che è un signor artista, devo dire, non me ne vogliano gli artisti dopo, ma direi che questo è evidentemente uno che ne sapeva. Il più alto, diciamo, il top di gamma è Keith Richards. Keith Richards, che chitarrista dei Rolling Stones. Ma è chiaro, proprio chitarrista dei Rolling Stones, nato il 18 di dicembre, per l'appunto, del 43, è in splendida forma. 2000 anni dopo, esatto, più o meno nello stesso modo. La traccia, spiegabilmente, peraltro. La traccia che abbiamo scelto a sto giro è un traccione del album Exile on Main Street, che è un album del 72 che conosciamo tutti a memoria, e Happy in particolare è diciamo doppia autore. Se quella di prima era di Paul Simon, questa è doppia genitore 1, genitore 2, sono Mick Jagger e Keith Richards. Attenzione, quindi, gente che insieme in quanto a droga farebbero diversi spacciatori. Ma guarda che è proprio e che comunque arrivarci così, esatto, drogati così bene a quell'età lì, così. Ma va bene, non la butto più in cacciara. Cosa faccio? Vado a cercare ciò che mi serve per far dissolvere la musica, alzare il volume. Benissimo. E via, tra pochissimo. I'm effettivamente happy. Happy e sicuramente non era tutta nature. No, forse no. Forse poteva non essere tutta nature. Magari invece sì. Magari invece erano felicioni così, perché correvano, giustamente erano comunque pur sempre i Rolling Stones. Esatto, erano contenti. Cioè, io sarei presa giovani abbastanza bene di essere dei Rolling Stones. Sì. Queste pietre che rotolano saranno contente di essere pietre rotolanti. Sparami, non possiamo andare a fare una battuta così, sparami per cortesia. Sì, infatti guarda, volevo uscire dalla radio e andarmene via. Ma invece vogliamo ringraziare Lorenzo, perché non l'abbiamo ancora fatto, perché sono le 19.36 del 14 dicembre 2020. Grazie Lorenzo, non so neanche perché ti sto ringraziando, ma davvero... Cioè, sei un fratello, fra. Sai cosa sarebbe bello? Sarebbe bello che Lorenzo iniziasse a visualizzare qual è il profilo dell'onda dell'espressione grazie Lorenzo. E tutte le volte, cioè, lui lo vede, no? Che compare mille volte grazie Lorenzo. Sarebbe bello, ma secondo me lui ha già una... tipo un chip nell'orecchio, che quando lo diciamo lui gli endorfina che gli parte. Sì, qualcuno ha riconosciuto il mio valore come uomo, ma prima ancora come persona della radio. Fatto, fra. Grazie, fra. Va bene, ciao. Altra gente compare? Oh, ciao Comodo. Ci sono degli ospiti di un certo livello, di un certo calibro, capitani di una squadra di calcio fortissima. Oi. Che la pandemia è stata inventata per fermare il cammino del Sant'Ambrosio FC, diciamo, verso la Serie A. Vero o no? Capitano, vuoi salutare un attimo al microfono? Dai, salutaci. Saluta. Ciao ragazzi. Dai, ci ha salutato il capitano. Niente. Grazie mille capitano. Va grande, bene, grande, bellissimo tutto ciò. Dopo questa breve interruzione lascio un attimo Chiara a continuare con gli appuntamenti. Quindi ma una piccola invasione. È bellissimo tutto ciò. Allora, prossimi due eventi sono un evento molto, secondo me, dalle ottime potenzialità, come qualsiasi cosa venga tirata fuori da Q-Code Magazine, nello specifico appunto organizzata da Q-Code Magazine questa tavola rotonda dal titolo Oggi 10 anni fa, e il riferimento è a quello delle, diciamo, il riferimento è alle rivolte, alle primavere arabe. Ho capito adesso, cazzo, cosa faceva riferimento. Proprio così. Che bomba. No, ma io me lo voglio, voglio stare lontano da improbabili bilanci, ma attenti a dinamiche e tensioni regionali in corso. Questo è, diciamo, la volontà di Q-Code Magazine. Interverranno Fuad Rueia, Laura Silvia Battaglia, Nancy Porsia, Laura Cappon, Sara Borrillo, e a moderare c'è il buon Cristian Elia, co-redattore insieme ad Angelo Miotto di Q-Code Magazine, che speriamo di vedere, che abbiamo ospitato in radio recentemente e speriamo di vedere presto dal vivo. Tra l'altro sempre avvicinati a Prospero Editore, quindi insomma ritornano chi propone ottima cosa, sì, insomma il vero riconosce il vero, fra. Comunque a parte il fatto che si dice queste cose e subito sotto parte solo dalla strada, cioè, della strada, ma ragazzi, che, cioè, e niente di tutto baciati questo, baciati dalla Dea Fortuna, cioè, proprio alla grandissima. Avremmo potuto fingere però, raga, e dire che la nostra regia potente, ma quando mai la regia stava scartabellando, mentre io come sentite bene da questo rumore in sottofondo, perché io sono un tipo, perché questa è l'agenda della settimana. Esatto. Fra. Io stavo facendo tipo da brava groupies di Q-Code Magazine, stavo andando a segnarmi sulla mia agenda personale, tipo venerdì, no, sei esatto, un minuto, accendi la cazzo di radio, ragazzi, e ascolti bravo, sta roba. Bravo, certo, questo è quello che bisognerebbe fare. Ognuno di voi dovrebbe prendere la sua agenda, segnarsi gli appuntamenti, analogica e non, e segnarsi questi appuntamenti. Tra le altre cose che potete segnalarvi e segnarvi sull'agenda, o mettervi un promemoria, è quello di abbonarvi a Q-Code Magazine. Questo è l'angolo della pubblicità. La settimana scorsa l'abbiamo fatto con il crowdfunding di Radio Onda d'Urto, e questa volta lo facciamo con Q-Code Magazine. I soldi sempre agli altri, a noi date stima, rispetto, onore, dignità, ma i soldi no, agli no, altri. Ragazzi, è un ottimo, vero. È veramente un ottimo progetto e un ottimo prodotto. Se davvero potete anche regalarlo per Natale, secondo me, addirittura, ve la butto lì. Secondo me non sarebbe nemmeno stonato paragonare Q-Code Magazine a un esperimento giornalistico serio, e per cui in Italia molto molto Ralo, tanto quanto Report. Cioè sono quelle robe che dici, quelli lì sanno come lavorare, sanno fare le cose. Loro secondo me ancora meglio, loro fanno una cosa, secondo me hanno una rivista online ma in realtà io nello specifico, perché è giusto separare, tu non l'hai fatto probabilmente idiota. Sapendolo, ma io in realtà ci tengo a palesare tutte e due le cose, perché Q-Code Magazine nasce come in realtà sito di informazione online, quindi in realtà io credo proprio che in questo caso sia, diciamo, la redazione online a organizzare questo questo evento. Questa testata giornalistica online da un annetto a questa parte ha deciso di investire nel cartaceo, andando controcorrente, diciamo, rispetto alle ultime, e ha deciso di stampare una rivista semestrale di geopoetica. Geopoetica. Lo sei. Sono geopoetica, idiota, è molto bello, è un bel prodottino anche, sono bello proprio, carta bella, cioè bello, oltre che intelligente quello che c'è scritto dentro, e edito appunto da Prosper Editore, quindi entrambi i progetti, che ovviamente sono uno parte dell'altro, sono da supportare, ma in questo caso, per l'appunto, se volete, a prescindere dal supportare tutto ciò, potete guardare oggi, 10 anni fa, tavola rotonda, appunto, relativa alle primavere arabe di ormai 10 anni fa. Comunque, quando io vedo, sento le presentazioni dei libri di Q-Code Magazine o di Prospero Editore, vorrei che comparisse tipo il meme, oppure io divento l'omino del meme, tipo quello, prendi i miei soldi, esatto, tutto quello che vuoi, vai, esatto, ti copro di 7 centesimi qua in tasca, sono povero. Merda, ma gli ridarò tutti fino all'ultimo. Sì, non è fatto proprio così il meme, cioè della carta in mano, sì, della carta suonante. Non inferire, devi arrivare almeno a 5 euro. Non inferire, ti prego. Ma tra l'altro è Fry di Futurama? Sì. Shut up and take my money. Sì, può darsi di sì, ma io riferivo anche Francesco, uno di quelli... perdonami, pormi da loca. Chi è Francesco? Fra De Bellis. Ah, ok, minchia, Fra. lo chiamiamo in radio anche da questa trasmissione. Povero, lo chiamiamo tutte le trasmissioni del mondo. Che incubo, poverino. Va bene, ma allora cosa vuoi fare? Ci abbiamo 3 appuntamenti o proponi della musica? Come vuoi fare? Propongo un altro appuntamento, vai, veloce, vai, ma che si chiama La Casa dei Racconti. Sì. Ed è una cosa atipica rispetto a quelle che abbiamo presentato fino adesso, perché è un incontro consigliato in particolare dai 6 anni in su. Oh. Perché? Perché ci sono delle storie che vengono raccontate dei sabati pomeriggi. Che bello. In particolare questa sia, credo, temo, o ahimè, sia la quarta, quindi ultimo evento della compagnia Campoverde Ottolini, che tra l'altro è una compagnia teatrale di zona. Ah, zona nostra qui? Zona Milano Sud, credo. Spero di non sbagliarmi, di non avere fatto gaffe. Comunque, nello specifico, la storia che viene raccontata è Alieni a Natale. E dice: sì, esiste un pianeta dove è sempre Natale. Strenne, abeti, babbi natali, robot, alieni, stelle, comete, tutto quello che volevate sapere sulla festa più famosa al mondo, ma mamma e papà non vi hanno mai raccontato. Maledetti! Dai 6 anni in su fate guardare ai vostri bambini questa, La Casa dei Racconti, sabato 19 alle 16 in diretta, con un accesso alla piattaforma Zoom sull'evento. Quindi andatevi a recuperare l'evento La Casa dei Racconti. A questo punto... secondo artista nato il 18, sì, non proprio uguale a Keith Richards, ma anche ci assomiglia perché in realtà sta compiendo 50 anni tondi. Earl Simmons, meglio conosciuto come DMX, e la canzone la conosci bene, caro mio, sì, Gulli, perché è Where the Hood At, del 2003. Attenzione, ma dovrei conoscerla veramente? Sì. Non ho presente, ma adesso, come al solito, mi incarto qua perché devo passare di qui e fare di così, e poi adesso la sentiamo. A tra poco. Hey, yo, you niggas must be out your fucking mind. Thinking dog can't pull another motherfucking rabbit out the hat. Think I ain't gotta trick up my motherfucking speed, you bitch ass niggas. Fuck it, niggas, niggas. That niggas think I'm doing just sitting around doing nothing. Oh my god, you niggas can't be serious. I can't. with a nigga like me. D to the M to the X. Last I heard, yeah, niggas was having sex with the same sex. I show no love to homo thugs. Empty out, you throw most. How you gonna explain fucking a man? Even if you squash the beef, I ain't touching your hand. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. I don't fuck with niggas that think they bras. Only know how to be one way, that's the dog. I know how to get down, know how to bite. Bark very little, but I know how to fight. I know how to chase a cat up in a tree. Man, I gave y'all niggas the business for fucking with me. Is she crazy? Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the truck with a wood act. All them niggas acting up with the wolves act. You better bust that if you gon' pull that. With a hood, with a hood, with a hood act. Had a nigga in the truck with a wood act. All them niggas acting up with the wolves act. You better bust that if you gon' pull that. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. What's the song? I come through, guns are strong. Blah, blah, lungs are strong. Sons of Mars, from dusk to dawn. Time belongs to the dog. On the street past midnight, look for him in the mall. Don't play with these cats, cause I ain't got nothing to say to these cats. For the mothers that really do love them, please pray for these cats. Cause I know niggas is hard-headed, but I ain't got the patience. Don't want me having no patience, turning to more patience. More trips to ICU, cause ICU. Trying to get away with shit a real nigga wouldn't do. Where my dogs at? See them niggas? Did them boys? That's how we do. Yeah, this is for my dog. This is for my dog. Yo, where we at, baby? From then till now, don't ask me how. Know that we gon' roll like the niggas in here. Hey, knock on the shout. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the truck, where the wood at? All the niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the truck, where the wood at? All the niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Do my crime, stop niggas like grapes making wine. Five CDs with mad rhymes. Don't hit me with that positive shit, I know you lying. You really wanna stop niggas from dying? Stop niggas from trying. Cause I ain't really got that time to waste. And I thought I told you to keep these fucking bums out my face. Looking at you in your grill, it might be nice to cut. Once I split your ass in two, you'll be twice as much. Yeah, you right, I know your style pussy, cause I'm fucking it. Since we all here, you hold my dick while he's sucking it. Motherfucker, don't you know you never come near me? Shove your head up your ass, have you seen shit? Him. Never heard the DB running, cause DB gunning. I beat my dick and bust off in your eye so you can see me coming. Empty clips and shells are what I leave behind. And if they get me with the drug, they hit me when it be the night. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the cut, where the wood at? All them niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Where the hood, where the hood, where the hood at? Had a nigga in the cut, where the wood at? All them niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. What? Where the fucking hood at? If hood is fucking with me, nigga, it's so real. I am the hood. I am the streets. You bitch ass nigga. It's all good. Take it how you want, motherfucker. It's all good. I'm in the hood all day. I think I'm like the only nigga, dog, that can go to the projects he's going to buy his fucking self and be good. Nigga, ask niggas on my projects when the last time they seen dog, motherfucker. Not too long ago, baby. D, Y, O. The niggas is homeless. Hey, eccoci tornati. Sempre, partiamo esatto. Sempre con un momento di echoes. Perché purtroppo devo fare troppe cose insieme e non sono capace. Tra l'altro, cioè adesso vuoi dirmi che non conoscevi questa canzone? Adesso vuoi dirmi che non conoscevi questa canzone? No, no, no, ovviamente avevo già orecchiata. Okay. Lui l'ho già sentito forse in altre canzoni bellissime che mi propose bellissime. Un mio amico quando giocava a football americano. Perché lui mi sembra un modesto tamarrone. Ma no, anche a 50 cosa anni. Dici? Un ragazzo educato, un ragazzo splendido. Ma no, no, guarda. Gentilissimo. Ti devi essere sbagliato. Esattamente, sicuramente. Sì, no, DMX è un bel tamarro, però insomma... C'ha 2003 questa Where the Hood At. Ma io mi chiedo, ma ora che questa gente ha appunto 50 anni, secondo te ha ancora la stessa cazzimma di scendere in strada in the hood e pompare la musica, rappare, no, eccetera, pompare eccetera. La musica sono sicura che lo fanno fino a 150. E questo ci sta, effettivamente. Rappare, francamente non ho seguito le ultime di DMX, ma secondo me sì. Pure. Sì, sì, no, sì. Perché prima l'ho confuso con Busta quando ai primi yo yo yo pensavo Busta, fosse Busta Rhymes. Poi ci torniamo su Busta Rhymes, perché abbiamo, diciamo, tu sai che adesso To-Do List si è impreziosita anche del momento palinsesto radio. No. Sì, lo ha fatto, quindi in realtà questa volta non siamo preparati, speriamo di, andando a braccio, di dire qualcosa di sensato, però poi su questo ci torniamo, perché c'è il sondaggio del secolo che si sta svolgendo in queste ore. Mm-hmm. Per decretare l'album l'album più bello e più forte del 2020. Attenzione. Sì, sì, niente po' di meno che. Allora, a questo punto noi abbiamo l'ultimo siparietto prima di entrare a gamba tesa, che era il vostro termine di riferimento l'altro giorno, prima di entrare, anzi di Piccarazzi. Ciao Piccarazzi. Grazie. Entrare a gamba tesa in tutto quanto e praticamente no, l'ultimo pezzettino, l'ultima skit prima di entrare poi nell'ambito degli eventi dal vivo, abbiamo un'ultima parentesi che è dedicata ai festival di due o più giorni. Nello specifico, in questo caso sono due i festival. Uno è V-Art su Strin, 7 cortometraggi diretti da donne, che ci è stato proposto da Eleonora. Ringraziamo, compagno, tra l'altro, grazie mille. Ne colgo l'occasione per dire che siamo un po' tutti redattori di questa puntata e di queste puntate di questo programma, quindi chiunque abbia dei suggerimenti, che organizzi o meno gli eventi in questione, ce li proponga senza paura. Ovviamente potete essere tutti redattori, nessuno può essere caporedattore, perché di caporedattrice ne abbiamo già una ed è Greta. Mi spiace. Grazie Greta. Grazie, per quello abbiamo chiuso i provini. Esatto. Però per tutti gli altri potete essere redattori anche voi di questa trasmissione, quindi fatelo. In particolare, per l'appunto, tornando a noi, Eleonora ci ha proposto questo festival internazionale di immagine d'autore che si dice essere nato a Cagliari nel 1996 e che fondamentalmente porta in Sardegna film non convenzionali e di diversi generi. Nello specifico, questa è la 25esima edizione, niente po' di meno, che si arricchisce di due nuovi appuntamenti che sono appunto tutti online. Nel caso specifico, quello di cui parliamo è una serie di 7 cortometraggi, tutti diretti da registe donne, e saranno proiettati gratuitamente dal lunedì 14, quindi oggi, a mercoledì 16 dicembre. Il tutto su www.stream.com. Tren con 3 e non 2, quindi se no strin a seconda dei punti di vista .org. Il secondo festival che proponiamo è organizzato da Bergamo Pride, è dedicato al mese della prevenzione, inaugurato lo scorso 1 dicembre dedicata all'AIDS. Il programma prevede diciamo dal 18 al 22 un programma che varia da sessualità, prevenzione HIV a HIV, stigma sociale, e il 21 un quiz su prevenzione e cultura generale. Che storia. Geni. Storia. E niente, quindi questi sono i due festival a disposizione per questa settimana. A questo punto, nuovo stacchetto con via. Perché due settimane fa oramai avevamo portato qua in radio una delle regine indiscusse, che è Britney Spears, una delle regine indiscusse del pop. che era nata appunto un paio di settimane fa. Però, come dire, dall'altra parte il contraltare già ha, tu sai che loro erano state co-conduttrici a Disney Channel. Oh, santo Dio. Erano lei e... cioè lei Britney Spears, lei questa di cui adesso parliamo, Justin Timberlake e Ryan Gosling. Oh, cazzarola, ragazzi, te lo giuro, te lo giuro, pesava la gravità in quello studio, incredibile, cioè, è lei lanciata. E tra l'altro invece questa appunto di cui festeggiamo il compleanno fra 4 giorni, il 18 pure lei, 18 perché è la terza artista che compie gli anni 18, nata nell'80, era, come dire, un po' la anti-Britney, nel senso che sono uscite insieme, una con Oops I Did It Again, l'altra il 22 giugno del 99, che piango perché la settimana scorsa ero con due persone, in 2 settimane fa ero con due persone in radio che non erano nate. Nessuna delle, no, invece una delle due sì, ma è una vergogna comunque, volevo dire. È inaccettabile. È inaccettabile. Il 22 di giugno del 1999 usciva Genie in a Bottle. Allora, della buonissima Christina Aguilera. Della buonissima Christina Aguilera, non nel senso sessista del termine. No, ho detto buonissima, a parte che è anche buona, se vogliamo dire, no, cioè, nel senso che questo non toglie niente alla sua buonissima interpretazione, ottima voce e... Comunque, se mi permettete di dire una cosa, in realtà, su proprio legge Christina Aguilera, la cosa buffa è che sembrava effettivamente una copia cattiva di Britney, perché Britney, soprattutto nei primi video, appariva molto pulita, mentre Christina Aguilera era costantemente un po' cosparsa d'olio, un po' come se avesse fosse po'... un turno in fabbrica, non so se avesse preso un filo di friggere le patatine fritte, ha giocato un po' più prolet, un po' più dirty. Infatti poi ha fatto la canzone Dirty. Esatto. Anche mentre... se devo dire che si è smaliziata anche Britney nel giro di molto poco. Ha deciso già di cambiare. For You c'era quella roba tutta sudata, quella gente che ballava. Sì, sì. Beh, anche Oops I Did It Again fondamentalmente. Esatto. Tant'è. Beh, no, Oops I Did It Again non era comunque abbastanza tutto cartunesco. Sì, però mi cava. Vabbè, delle mie opinioni, giustamente, che cazzo gliene frega, una persona per cui potrei anche smettere di parlare. Era, giocava sull'ambiguità, era una... dire. Giocava. Va bene, quindi Genie da Bottle, spero di aver fatto tutto bene. Si dovrebbe funzionare. Alziamo il volume, ci ascoltiamo. Yeah. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Baby, permanent at the end. Saying no, no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a cheating, I'm a cheating. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, gotta like what you do. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. Mi sono fatto fregare. Cazzo. Da Cristina. Grazie Cristina, ci vediamo. No, adesso quanti anni avrà? 50? No? Adesso che 50. Non andrà. Intanto stai 47, calmo. 95, intanto stai calmo. 86. Guarda, ti piacerebbe, invece no, sono vabbè. Due dell'80, caro mio. Ah, sono entrambe dell'80, forse addirittura. Sono dell'80 a 40 anni. Ah, 40 vabbè, anni, non 50. Detto, 50. Che scemo. Che scemo. Però vabbè. Anche lei, un po' come Britney, la vedo un po', come dice, come anche Craig, un po' tutti clissati dalla ribalta. Ma Britney invece ha fatto grandi cose. Sì, prima di finire la clinica per disintossicarsi, lasciarsi a zero e poi tornare a cantare You Better Walk Bitch. Guarda che è diventata un'icona di brutto dopo. Scusa, stavo inventando Britney che cantava You Better Work Bitch, questo inno operaista bellissimo, sarebbe stato gradevole per lotta continua, molti movimenti, ma fa beh, niente, è un altro immaginario, un altro immaginario, comunque, ma procediamo spediti comunque con no, compiono eventi. 40 anni e sono molto meglio di noi a 30 e tu, perché io ne ho 22. Sì, confermo, confermo. Quindi niente, praticamente arriviamo sull'ultima, ormai all'ultimo pezzo di questa rubrica, di questo programma, che è il momento eventi dal vivo, che è molto bello perché è bello che siano tornati ad essere plurale questa cosa. Allora, il primo di cui parliamo è, l'avevamo anticipato già la settimana scorsa in realtà, perché avevamo paura che voi ve lo perdeste questa settimana perché è troppo sotto, e invece è il 15 dicembre, che è una data piuttosto importante per la storia politica di questa città, perché è la data in cui hanno suicidato il buon Giuseppe Pinelli, compagno anarchico imprigionato, diciamo, per 72 ore di seguito nella questura di Fate Bene Fratelli di Milano, per poi cadere giù da una finestra dell'ufficio, e questo ovviamente a distanza di tempo non può essere assolutamente perdonato e non può essere dimenticato. Quindi come tutti gli anni, anche quest'anno martedì 15 dicembre ci si ritrova a ricordare Giuseppe Pinelli, e nello stesso contesto l'innocenza di Pietro Valpreda, che è stato per lungo tempo identificato come l'autore di un gesto che ormai sappiamo bene non essere minimamente appartenuto alla sinistra, ma anzi essere di matrice come dire fascista e di indirizzo o perlomeno occultamento istituzionale. E quindi martedì 15 dicembre 2020, domani, perché oggi è il 14 dicembre, ore 17:30, Piazza Fontana, per ricordare Giuseppe Pinelli. Alle ore 18 la proiezione del film documentario Pino, vita accidentale di un anarchico, regia di Claudia Cipriani e master big totale star protagonista, bravo, il nostro dillo, caro Tommy Russi, bravo, grandissimo Tommy. Esattamente. È alle ore 19:15 cantata collettiva con o senza strumenti, professionisti e non, siete tutti invitati a partecipare. E dai, scaldiamo anche un po' questo pomeriggio di dicembre, su. Esattamente, c'è anche la playlist della iniziativa, ma se non la sapete non la scoprirete certo fra oggi e domani. Ah! La seconda iniziativa, sono anche contenta di presentarla, è un'iniziativa dedicata al mondo della cultura e dei musei, anche dello sport e dell'associazionismo, perché il 16 dicembre in decine di piazze italiane e anche a Milano scendono in piazza appunto i lavoratori e in realtà anche altrettanto i, come dire, i fruitori del, delle realtà culturali delle, delle varie città. Non a caso l'iniziativa si chiama Non è tempo libero, nel senso che per l'appunto quello che viene derubricato come del tutto superfluo e quindi rimandabile in realtà è un pezzo importante della, della vita, o per chi non lo è dovrebbe esserlo, e come dire, le istituzioni dovrebbero fare in modo che lo fosse quanto più possibile. Per l'appunto lo slogan quindi è Non è tempo libero, riconoscimento, risorse e spazi, per chiedere attenzione e pianificazione per i settori di cui abbiamo parlato. La protesta si svolgerà presso Piazza Castello alle ore 11 e quindi insomma siete tutti invitati. La protesta è promossa da parecchie realtà, fra cui mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali, il lato B, la rete della conoscenza, insomma diversi. Altrettanto del organizzato, penso sempre, non vorrei sbagliarmi, ma penso sempre dalla rete della conoscenza, però non vorrei fare gaffe, è lo stesso presidio, cioè diciamo un altro presidio lo stesso giorno, alle ore 10 invece sotto il Pierellone, per quanto riguarda il mondo della istruzione. Quindi c'è scritto, diciamo il titolo è Noi non la crisi non la paghiamo, studenti abbandonati prendiamo parola, e l'idea è quella appunto di provare a portare in piazza tutte le problematiche che l'assistenza, diciamo la didattica a distanza sta portando anche in termini di come dire, imparità nell'accessibilità, impari accessibilità alle risorse, alla possibilità di frequentare la scuola, diciamo rispetto a questo un drastico taglio nel solito, diciamo solito tagli nei bilanci che verranno appunto votati il 16 dicembre, non a caso la scelta della data per entrambi i presidi. A questo aggiungiamo un ultimo, diciamo, tra l'altro ho segnato che cosa, ma non ho segnato quando, ma me lo ricordo il 18 invece, è uno sciopero nel settore della logistica di cui in realtà so pochino, se non che al mattino c'è uno sciopero e alle 15 è previsto un presidio sotto la prefettura. Di questo ahi noi non possiamo darvi nessun recapito online perché non ne ho trovati, ma insomma provate a dare un occhio ai canali di comunicazione verosimilmente delle organizzazioni sindacali di base se volete, o se no passate direttamente alle 15 sotto la prefettura sulla fiducia. Questa è l'altra alternativa. Come sempre ultimo, valido andare in giro di persona comunque. Sempre valido, esatto. Siamo in zona gialla, se state bravi, mi raccomando. Sempre per ognuna di queste cose, lo ripetiamo fino alla nausea, ognuno di questi come dire, eventi live non può prescindere da una cura da parte di tutti i partecipanti. Quindi mettete delle mascherine, state distanti, facciamo in modo che ognuno di questi spazi di, come dire, di giusta rabbia non sia fermato per cagate di questo genere, piuttosto non lo dico, non continuo la frase, esatto, insomma, brava, lascia stare prima, cioè, che poi diciamo la porta, ma esattamente, però insomma cioè le mascherine mi sembrano il minimo sindacale, la cura per voi e per chi vi sta intorno. E quindi, come dire, l'ultima spunta sulla nostra agenda prima di mettere l'ultimo pezzo di un'altra artista nata il 18 dicembre è, come dire, lo spot radio. Attenzione. Nel senso che settimana scorsa siamo riusciti a mettere insieme un palinsesto da presentare, questa settimana non so se sarà possibile. Zona rossa. C'è zona rossa. Ci saranno, cosa ci sarà questa settimana? Ma sicuramente ci saranno le ribelli, i nostri punti fissi nel mondo. Poi dovrebbe esserci un'app, e infatti, qua volevo arrivare, perché in realtà quello che so, che mi è stato scritto in un pizzino in questa maniera, è che sabato 19 ore 13:12, attenzione, niente po' di meno, già app Underground Pusher, valente e valida programma offerta programmatica di questa radio, decreterà il disco rap USA più potente del 2020. Oh, fuck. In lizza ci sono l'ultimo di Busta Rhymes, cioè Ele 2, so heavy, so heavy. Run the Jewel 4, che è il quarto di Run the Jewel, e Pray for Paris di West Side Gun, che è un altro discone. Che I've got no idea what we are talking about. Non I think that Run the Jewel is the bad man, you know? Ti metti contro Busta Rhymes? Non lo so, guarda, è un è un'ottima cosa, come dire, non è una bella battaglia. È una bella battaglia. E quindi, insomma, rimandiamo anche alla pagina della radio per qualsiasi aggiornamento rispetto ai prossimi palinsesti. Io e cosa ci ascoltiamo quindi noi in chiusura? Come chiusura ci ascoltiamo Billie Eilish, che anche lei è la quarta persona, lei è del 2001, però vabbè. No, non piangiamo in silenzio questa cosa. Non dico altro, lei è del 2001 e quindi ha 21 anni meno di Cristina. E 11 meno di noi. Parla per te, io ne ho 12. 22. Esatto. E quindi in realtà forse è un po' più piccola, ma non, sì, di tanto. Ma non di tanto. E adesso devo fare i conti per capire. Gli ho spiccicato, sì, esatto. Ma ricordi che neanche 25 al massimo, quindi al massimo 22. Esatto. E niente, quindi lei invece è del 2001, quindi è un po' più piccina di me. Il pezzo l'abbiamo fatto scegliere alla Nikki, che è una grande cultrice. E adesso è coetanea, peraltro. Questa cosa è veramente dire, vergognosa. No, vergognosa. Non me lo volevo sapere. La gente non poteva smettere di nascere, non so, nel 98 già erano abbastanza piccoli. No, non è andata avanti a nascere anche dopo. È così. Terribile, terrificante. Vergogna. E quindi Therefore I Am, ultimo singolo di questa cantante. E ho anche l'ultima traccia di questa fantastica puntata di To Do List. Fate queste cose belle, perché poi è solo Natale e vi diremo soltanto che il 25 dicembre è nato Gesù Cristo e basta. Lo è. Grazie mille a tutti e tutte per l'ascolto. Grazie, ciao. Chiara, per averci portato qui queste fantastiche informazioni. Grazie alla persona che è sul divano, che da dietro ci suggerisce delle cose. Sacchetto dell'immondizia qua dietro. Esatto, e grazie a tutti e a tutte, buona serata. Ciao. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I don't think I sorry. I don't think I cry tonight. I'm not your friend.